L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Benvenuti ascoltatrici e ascoltatori a una nuova puntata di Darwin. Ciao Federico. Ciao Chiara. Allora, sono bianchi e neri e in questo momento non possono ascoltarci, purtroppo. Sono là in Antartide, decine di migliaia, forse gli animali più buffi e simpatici che ci siano su questo nostro pianeta. Per parlare dei pinguini, come avrete capito, c'è con noi Silvia Olmastroni. Intanto benvenuta a Darwin. Grazie dell'invito, saluti a tutti. Lei è di formazione biologa, collabora con l'Università di Siena e lavora al Museo Nazionale dell'Antartide nella sede di Siena. Li conosce molto bene perché ci è stata. Ecco, ci deve spiegare intanto le particolarità che hanno questi animali, perché obiettivamente sono molto particolari, sono uccelli ovviamente. Noi ad esempio abbiamo visto sulla pagina sua di Facebook che ci sono delle foto in cui lei è circondata da tantissimi individui di una specie particolare e lei prende appunti con un block notice. Che cosa intanto si segna, che cosa studia, sembra quasi che li stia interrogando e loro rispondano alle sue domande. In realtà come avviene questo tipo di studio? Le foto sono, insomma, sono abbastanza anche strane, no? Quando ci si vede in quel mare di pinguini con questa figura umana nel mezzo intenta a prendere appunti. Loro non mi rispondono, ma io cerco comunque di raccogliere informazioni. Sì, intanto gli studi che portiamo avanti ormai da tanti anni, dal 1995 con l'Università di Siena, riguardano una specie in particolare, che è il pinguino d'Adelia, che nel continente antartico è la più diffusa. Ricordo che le specie in realtà sono 18 in tutto l'emisfero australe e si distribuiscono dalle isole Galapagos appunto fino al continente antartico. Però lo scopo della nostra ricerca è di seguire una delle popolazioni più abbondanti, perché appunto essendo distribuita intorno al continente antartico in modo circumpolare, la salute di questa specie ci dice anche di conseguenza come l'ecosistema stia andando, quindi se le popolazioni aumentano, se diminuiscono, c'è una risposta anche della disponibilità di prede e quindi della salute del continente antartico e dell'oceano meridionale stesso. Già una particolarità è che si avvicinano all'uomo e non hanno nessun tipo di timore. Appunto lei si mette lì, li osserva, prende appunti sul block notice. Anche a me è capitato in Sudafrica che non avessero il minimo timore dell'uomo. Sì, dipende molto anche dalle esperienze che hanno avuto, perché pensiamo comunque che soprattutto per i pinguini antartici il contatto con l'uomo è stato abbastanza recente, quindi dall'inizio dei primi esploratori del Novecento, ma certo, diciamo per gli studi che facciamo oggi dalla metà del 1900. In realtà bisogna essere molto cauti, perché come lo studio avviene quando loro sono in riproduzione, perché altrimenti questi animali adattati alla vita marina in modo molto estremo passano più dell'80% del loro ciclo vitale in mare, quindi il modo per studiarli è proprio andare a osservarli durante il periodo riproduttivo. Quindi con molta cautela si marcano alcuni nidi che seguiamo durante la stagione, e da quel blocchetto quello che tentavo di registrare era il numero di uova o di pulcini schiusi, gli occupanti maschi e femmine, quindi si fa una cronostoria annuale di alcuni nidi di riferimento negli anni ci dà un andamento di queste popolazioni. Ovviamente non siamo solo noi a fare questo lavoro, ci sono degli studi da tutte le nazioni che intervengono nell'ambiente antartico, insomma dei programmi di monitoraggio. I dati poi afferiscono in una commissione internazionale e si cerca con questo di anche dare una mano alla conservazione e alla gestione delle specie e dell'ambiente. Ecco, lei torna spesso negli stessi luoghi, ci sono quindi dei soggetti che continua a incontrare. Quanto vivono i pinguini, un pinguino? Sì, le specie antartiche comunque in generale tra i 15 e i 20 anni. Poi ovviamente le condizioni climatiche sono abbastanza estreme in alcune aree, ma la loro vita stessa appunto vanno incontro a predazione in mare da parte di mammiferi marini, e invece sulla zona riproduttiva, quando sono sulla terraferma, le uova e i pulcini sono preda di altri uccelli marini, ad esempio. Quindi in generale, ecco, un pinguino può arrivare anche oltre i 20 anni. Nella nostra colonia abbiamo ancora pinguini marcati da pulcini che a 23 anni sono presenti, quindi vuol dire che ovviamente hanno anche una capacità di andare oltre le nostre misure standard. Meno male. Sì. Come organizzano la loro vita? Ad esempio, lei diceva la schiusa delle uova, la nascita dei piccoli, il nido, addirittura appunto sappiamo che le cure parentali sono affidate anche al maschio. Ecco, come si organizzano in quelle condizioni anche davvero molto estreme di temperature bassissime e venti fortissimi? Sì, è importantissima la sincronia del ciclo riproduttivo, perché l'estate antartica è abbastanza breve, si parla di 2 mesi e mezzo, per le specie come i picoscelli, quindi il pinguino d'Adelia e anche altre specie più piccole. Loro si alternano al nido nelle cure parentali, ma come diceva giustamente lei, la parte più faticosa all'inizio della riproduzione è affidata al maschio, perché raggiungere la colonia dalle zone di svernamento a piedi, iniziare il digiuno, poi c'è la deposizione delle uova dopo l'accoppiamento. Se la femmina dovesse effettuare anche il primo turno, da un punto di vista di condizioni fisiche e energetiche sarebbe letale, e quindi dopo la deposizione dell'uovo è la femmina che per prima va ad alimentarsi, mentre il maschio consuma le proprie riserve accumulate appunto prima della stagione riproduttiva per affrontare la prima fase della cova. Nel pinguino d'Adelia dura 4 settimane, poi dopo invece lo scambio al nido si alterna le prime 2 settimane, poi sempre più veloce anche fino a 2 giorni per uno alla fine della stagione. Un'organizzazione perfetta. Sì, ecco, appunto dicevo, la sincronia perfetta. E perfetto, nel senso perfetto e notevoli sono gli adattamenti che loro hanno, sia da un punto di vista comportamentale che fisiologico, e lo stesso fatto di riunirsi in colonie apporta dei vantaggi. Ora, diciamo che l'esempio però più estremo è il pinguino imperatore. Velocemente non sfrutta l'estate antartica per riprodursi, ma si riproduce durante l'inverno antartico, quindi è l'unico esemplare, diciamo l'unica specie di questo gruppo di animali che riesce a sopravvivere a quei venti oltre 200 km orari alle temperature sotto i 40 gradi centigradi. Il pinguino imperatore è quello che ha delle dimensioni più grandi, è la specie con le dimensioni più grandi, è corretto? È la specie, sì, più grande, circa 1,20 m, oltre 35 kg di peso. Ed è quello che abbiamo per caso visto nella famosa marcia dei pinguini, esatto, il famoso documentario. Esatto. Okay. Documentario che è stato girato durante l'inverno, ma a una latitudine abbastanza ridotta, mentre le colonie più estreme arrivano anche oltre il 70° grado parallelo sud, quindi lì veramente siamo nella notte totale. Senta, questo pinguino imperatore mi sembra che abbia delle prestazioni eccezionali, no? Come animale. Sì, sia fuori dal mare che nel mare. Intanto, a differenza degli altri componenti di questo gruppo, non nidifica sulla terraferma ma sul ghiaccio marino costiero, quindi è sempre a contatto in qualche modo con la parte più fredda dell'Antartide. Quando si immerge per cacciare le sue prede preferite, che possono essere piccoli crostacei come il crisci ma anche i calamari, ecco, può raggiungere delle notevoli profondità, oltre 400 metri di profondità. Quindi hanno senz'altro degli adattamenti, come dicevo, al nuoto e comunque anche alle basse temperature notevoli. Ma scusi, 400 metri vuol dire notte fonda, buio totale. Riescono a muoversi così, con altri sistemi di orientamento? Probabilmente quando raggiungono quelle profondità sono a caccia appunto di prede, come i calamari, che potrebbero in qualche modo forse sfruttare anche la bioluminescenza delle prede. Altrimenti si va su profondità inferiori e sono comunque dei predatori visivi, quindi sia per la Delia che per l'imperatore si sfrutta anche il contrasto con la luce esterna, quindi fuori dal ghiaccio. Infatti loro prediligono zone in cui c'è del ghiaccio marino, ma anche del mare aperto per pescare. Certo, sono degli uccelli straordinariamente idrodinamici, cioè veramente delle specie stranissime. Volano in acqua. Ecco, ovviamente il loro benessere, proprio in conclusione, il loro benessere, la loro salute, come diceva lei, è un po' lo specchio di quello che è poi la salute di quell'ecosistema, che appunto in questo periodo ce l'abbiamo molto ben presente. L'aumento delle temperature, i cambiamenti climatici mettono un po' a rischio questo ecosistema. Lei tornerà giù, insomma, ci sono altre ricerche che vanno svolte in questo momento proprio così particolare e complesso? Le ricerche non finiscono mai. Quello che ci bloccano purtroppo sono i progetti approvati o meno e soprattutto i fondi di ricerca. Quindi in questo momento siamo in stand by, in attesa di poter ritornare. Ecco, per questa stagione non sarà possibile perché non c'è stato per vari problemi, non c'è stato finanziamento, sì, è il problema. Però d'altra parte, insomma, si cerca di essere sempre presenti. I dati raccolti sono tanti, abbiamo anche dei sistemi di raccolta dati in remoto e automatici, quindi delle macchine fotografiche che fanno un time lapse di alcune zone delle colonie che li monitorano per voi da là. Va bene, grazie mille davvero Mastroni, buon lavoro, buona ricerca, speriamo che possa tornare presto da loro. Speriamo, grazie a voi, buon lavoro. Si recupera e si ricicla anche l'acciaio, Federico. Forse vi verranno in mente le grandi strutture come i ponti, le navi, i grattacieli, ok, ma c'è un'altra spettacolare sorgente di acciaio: le scatolette. Quelle con dentro il tonno, i fagioli, gli sgombri, sono miliardi, no? Bene, in Italia c'è il RICREA, che è il Consorzio Nazionale per Recupero e Riciclo dell'Acciaio, e qui con noi oggi è Domenico Rinaldini, che ne è il presidente. Benvenuto. Grazie, un saluto a tutti. Allora, presidente, vogliamo dare un po' di cifre anche appunto sul consumo di queste scatolette di cibo in scatola? Sì, diciamo un riferimento innanzitutto al consorzio. Il consorzio RICREA è il consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. Noi ci interessiamo quindi di organizzare la raccolta e il corretto riciclo dell'imballaggio in acciaio. Per darvi un'idea, ogni anno vengono immessi sul mercato italiano o circa 450.000 tonnellate di imballaggio in acciaio. Queste vengono poi, chiaramente questi imballaggi vengono utilizzati, quelli destinati al consumo vengono raccolti attraverso la raccolta differenziata organizzata dai comuni e poi noi ci interessiamo di raccoglierli, di trattarli e di riciclarli. L'anno scorso ne abbiamo riciclate oltre l'82% dell'immesso al consumo, quindi un risultato direi molto buono, che ha premiato e che premia il lavoro di questi anni. Che è una cifrona, no? Perché a livello europeo sta per arrivare anche questa direttiva europea molto più avanzata sul riciclo. Con l'80% siamo messi benissimo. Siamo messi molto bene, perché in effetti, come giustamente diceva lei, l'obiettivo della direttiva europea è di raggiungere l'80% nel 2030. Noi siamo già all'82% con molti anni, diciamo, ancora davanti a noi, e questo non è però un risultato che abbiamo raggiunto così improvvisamente. Negli ultimi anni il tasso di riciclo medio è stato sempre sull'ordine di circa il 75%, quindi direi che è un risultato consolidato oramai. L'Italia, presidente, importa acciaio, no? Con questo riciclo possiamo importarne? Sì, diciamo questo, noi siamo importatori di rottame, di acciaio per la produzione poi di nuovo acciaio destinato ad essere lavorato nei forni elettrici. Quindi il fatto che noi abbiamo una certa quantità in Italia, parliamo di milioni di tonnellate, il nostro consumo di rottame è di milioni di tonnellate, quindi noi rappresentiamo una cifra, se vuole, modesta, ma che comunque è importante, perché comunque ci consente in qualche modo di ridurre un po' le importazioni di rottame e di utilizzare questo rottame per la produzione di nuovo acciaio. L'acciaio è un materiale straordinario, una grossissima caratteristica, cioè si ricicla facilmente, si ricicla all'infinito senza perdere le caratteristiche qualitative iniziali. Quindi quella scatoletta che raccogliamo oggi trattata diventa acciaio magari per binari, magari per bulloni, magari per ponti, magari per acciaio destinato ancora all'imballaggio in acciaio. Pensate che da uno studio fatto dai fabbricanti, dall'associazione dei fabbricanti di materie prime di imballaggio in acciaio, si stima che l'80% dell'acciaio prodotto da sempre è ancora in circolazione. Ah. Perché? Perché si ricicla, l'acciaio si ricicla sempre, non perde le caratteristiche qualitative, quindi chiaramente è un materiale straordinario. È una caratteristica straordinaria che appunto molti imballaggi non hanno, e quindi questo certo. È un lato molto positivo. Una curiosità, Presidente, durante il lockdown avete registrato un aumento di consumi di scatolette, di cibo in scatole, quindi anche un aumento del riciclo di queste? Guardi, nei primi mesi di questo anno particolarmente difficile, nei supermercati si è registrato un aumento importante dei prodotti confezionati in imballaggi in acciaio, quindi parliamo di pomodoro, carne in scatola, tonno. Secondo uno studio, un dato dell'ufficio studi di Confagricoltura, si è stimato che nei primi mesi del lockdown il consumo di cibi in scatola è aumentato di circa il 30%. Ah beh, ok. È tantissimo. Questo è tantissimo. Abbiamo fatto le scorte. Abbiamo fatto le scorte, abbiamo anche consumato di più perché abbiamo cucinato di più in casa, ci siamo dedicati. Abbiamo fatto le pizze. Certo. Abbiamo fatto le pizze, abbiamo fatto le grandi insalate, cioè le grandi paste asciutte, grandi piatti di pasta asciutta. E conseguentemente è aumentata anche la raccolta differenziata, che nei primi 4 mesi rispetto al periodo precedente, sempre per quanto riguarda l'acciaio, è aumentata di circa il 16%. Che è sempre una bella cifra. Qui però c'è anche un fattore psicologico, cioè dentro la scatoletta il virus non è andato, quindi un po' di garanzia. Me la apro e me la mangio. Esatto. Su questo c'è da dire che nonostante le difficoltà del momento nella filiera, tutto ha tenuto, nonostante l'aumento, nonostante le difficoltà, direi che il sistema ha tenuto molto bene, insomma, grazie all'apporto di tutti gli attori della filiera. Ottimo. E se guardiamo al futuro, Presidente, avete qualche progetto di avanzamento tecnologico, ad esempio, nel vostro lavoro, nel vostro ambito? Guardi, diciamo questo, che i nostri prossimi obiettivi sono un po' mirati al miglioramento della qualità, nel senso che oramai il sistema è sviluppato, la raccolta differenziata la troviamo sostanzialmente dappertutto, ci sono alcune aree dove sicuramente va migliorata, e quindi il nostro obiettivo è comunque ancora di migliorare la quantità, però il vero obiettivo nei prossimi mesi è di concentrare l'attività sulla qualità. Perché? Perché migliorando la qualità si riducono i costi, e quindi questo è un beneficio poi anche alla fine per il consumatore. Per fare questo abbiamo bisogno di tre contributi: il contributo dei comuni per una buona organizzazione della raccolta differenziata, il contributo del cittadino che deve essere attento e disciplinato a mettere l'imballaggio usato nel posto giusto, possibilmente un po' pulito, in modo da avere poi dei vantaggi nel trattamento, e poi gli addetti, cioè gli attori della filiera per quanto riguarda la selezione del materiale, quindi per la suddivisione e la divisione del materiale. Tutto questo perché? Perché tutto questo porta ad avere alla fine del trattamento un materiale molto buono, quindi ad avere un valore aggiunto maggiore e quindi a ridurre i costi di trattamento. Quindi il punto e l'obiettivo per i prossimi 2-3 anni è il miglioramento della qualità del, diciamo, della scatoletta usata. Allora davvero in bocca al lupo e buon lavoro, Presidente Rinaldini. Grazie, grazie mille, buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. Potrà sembrarvi strano, aggiungiamo noi un'informazione, ma più pulite le scatolette prima di mandarle appunto al riciclo meglio è. Sì, diciamo che in generale è meglio sempre svuotarle e dare una sciacquatina veloce anche con dei tovagliolini sporchi. Questa è un po' la raccomandazione che danno tutti i consorzi degli imballaggi. Ok Federico, la nostra puntata bella, bellissima, termina qui, ce lo diciamo da soli. Tutte le altre le trovate su www.radio24.it. Ciao a tutti, ciao Federico. Ciao a tutti e a tutte. Da Ravenna. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.